Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Prendendo lo spunto dalla favola di Mandeville sulle api e le formiche, Giuliano Zincone immagina un dibattito parlamentare sul conflitto tra Israele e Palestina. Presidente, è iscritto a parlare il senatore a vita Vito Vitale. Ne ha facoltà. Vitale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi tempi burrascosi, ciascuno di noi deve porsi un interrogativo. Perché le api vengono definite industriose e le formiche soltanto operose? Voci dell'emiciclo. No, c'è ben altro. Noi consideriamo industriose le api perché esse costituiscono mirabili manufatti, architetture geometriche, leggere e salde, che spesso ispirano gli urbanisti d'avanguardia. Le api, brusio insistente, applausi ironici. Le api, dicevo, presidente. Silenzio, onorevoli colleghi. E lei, senatore Vitale, si attenga all'ordine del giorno. Vitale. Le api, dunque, producono il miele, delizioso complemento delle nostre colazioni, e la cera, che benché in gran parte sostituita da impasti chimici, rimane pur sempre un esempio di industriosità. E se insomma, ci sono utili in molti modi, con l'impollinazione, per esempio, che non solo allieta le nostre giornate alimentando i fiori, ma ci offre anche una formidabile metafora per spiegare ai pargoli il mistero della riproduzione, cioè della vita stessa. Su questo non mi dilungherò. Quante volte ciascuno di noi ha affermato che il babbo ha impollinato la mamma? Ululati bipartisan, mai! Presidente, posso proseguire? Malgrado i loro pregi indiscutibili, perfino questi imenotteri suscitano diffidenze, per via dei loro aculei. Bernard Mandeville, inoltre, strumentalizzò l'immagine delle api con la sua celebre settecentesca favola, sostenendo che nell'alveare antropomorfo la corruzione genera benessere, mentre l'austerità determina fallimenti, recessioni e addirittura schiavitù. Su questo vi inviterei a riflettere. Borbottì a destra e a sinistra. Prima Repubblica, Tangentopoli. Presidente, la prego di stringere, senatore. Vitale. Le operaie giallonere, infine, subiscono recenti morie, come i loro colleghi umani addetti all'industria e alle costruzioni. Le formiche, invece, si moltiplicano selvaggiamente. Sono operose, ma non producono niente che ci serva e che ci allieti. Ci danno soltanto fastidio, e quindi le eliminiamo volentieri con il bygone. Urla del gruppo animalista. Assassino, buffone! È vero che alcuni pueri usano masticar formiche ricavandone una leggera ebbrezza, ma ciò è irrilevante. Molto più efficace, lo dico per esperienza, è sniffare la coccoina, e specialmente la colla per i giocattoli di balsa, la celebre Airplane Glue degli psichedelici anni 60. Rumorose contestazioni da destra. Depravato, cattivo maestro! Grazie, onorevoli colleghi. Il mio lungo preambolo era necessario alla discussione dell'ordine del giorno, il quale riguarda la ragion d'essere e il destino di codesta assemblea che molti, ormai, vogliono radicalmente riformare. Come sapete, il bicameralismo perfetto è fin troppo contestato. Ci occuperemo soltanto delle regioni? Saremo riciclati, rottamati o sfrantumati? Sarà decisivo il parere di ciascuno di noi e di tutti noi su questioni cruciali e controverse quali il riscaldamento globale, i flussi migratori, la penuria energetica? E potremo far pesare il nostro sgomento di fronte ai quasi 300 bambini uccisi nella striscia di Gaza? Dissensi da destra, scudi umani, propaganda, timidi applausi da sinistra. Va bene, chiamiamoli danni collaterali, prodotti per autodifesa, per affermare il diritto all'esistenza di uno Stato che rappresenta l'Occidente, la nostra cultura, la nostra democrazia assediata dal fondamentalismo assassino. Io continuo a condividere disperatamente le ragioni di Israele, ma vorrei piangere per i morti di Gaza. Presidente, 5 minuti, senatore Vitale, e non pianga. Vitale. Concludo, signor Presidente. Saremo sfoltiti o esautorati se seguiteremo a dimostrarci superflui. Per superare la crisi economica, dobbiamo imporre, sì, imporre, iniziative pratiche. Non serve a nessuno la sotterranea avarizia delle formiche. Bisogna motivare e finanziare le api. La ricerca e l'impresa, il miele e i fiori. E noi dovremmo dare l'esempio. Ma noi siamo api o formiche? Il popolo che ci paga gli stipendi Non s'accontenta di vederci in fila nei corridoi, affaccendati a chiacchierare della nostra impotenza, ansiosi come formiche di rimanere in questa nobile tana. Anche le api faticano per perpetuarsi, pungono chi le minaccia, come è giusto. Però il loro lavoro è ingegnoso e prezioso. Spero di essermi spiegato, onorevoli colleghi. Grazie. Silenzio nell'emiciclo. Poi commenti ad alta voce. Qualunquista, populista, sembra oltre il giardino. Presidente. Grazie, senatore Vitale. Mi è iscritto a parlare il senatore Mirmeco. Ne ha facoltà. Avete ascoltato la lettura di un testo di Giuliano Zincone dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Dato che per raccontare gli scrittori usano le parole, Matteo Bianchi e Giorgio Vasta hanno pensato di chiedere a 300 narratori e poeti quale fosse per loro la parola affettivamente più significativa. Ne è nato il Dizionario Affettivo della Lingua Italiana. Alla lettera G troviamo la parola gomma pane, che allo scrittore Giampiero Rigosi rievoca ricordi di infanzia. Quella che mi viene in mente per prima è una parola che probabilmente non uso da decenni, gomma pane, che già fa bene allo spirito per il suono e la composizione. Due parole buone, morbide, profumate, il pane e la gomma. Pensando alla gomma pane, riaffiorano ricordi lontani, dita che rigirano sotto il banco una pallottolina bianca e profumata, piacevole da toccare, da premere, da modellare. Di cosa è fatta la gomma pane? E a cosa serviva veramente? Forse a cancellare i tratti a matita, ma per quello non bastava una normale gomma da cancellare? Ce n'erano di bellissime, morbide, profumate che si scioglievano sul foglio, mentre quelle a due colori, per matita e biro, erano troppo dure e avevano un sentore chimico sgradevole. Ma se per cancellare c'erano le gomme, per giocare c'era il pongo e per modellare c'era il dash. Come riuscivo a convincere i miei genitori quando mi accompagnavano in cartoleria, luogo meraviglioso per me da bambino e anche ora, come la libreria e la pasticceria, a comprarmi una confezione di gomma pane? Ricordo ancora il brivido nello strappare il rivestimento di celofan e nel violare per la prima volta la compattezza candida e ancora geometricamente perfetta della gomma pane appena comprata. È un gesto così intimo, così profondamente legato all'infanzia. Polpastrelli che distrattamente, ma allo stesso tempo con grande perizia, rigirano e impastano materia morbida. Il lobo di un orecchio, un minuscolo gomito di tessuto, una caccola estratta da una narice. Spesso mi capita ancora, per esempio a tavola, durante certe interminabili discussioni da dopo cena, di cercare qualcosa con cui giocherellare. Gomma pane non ne ho. Ne ho rinvenuto un avanzo sul fondo di un astuccio tempo fa, ma era secca e indurita. Quindi le mie dita si impadroniscono di quel che trovano. Il lembo strappato di un tovagliolo di carta, un pezzetto di sughero, una pallina di mollica. E ancora si ravviva automaticamente quel gesto che viene da lontano e che per un periodo della mia vita ha avuto come complice ideale quella materia misteriosa e affascinante, la gomma pane. Avete ascoltato la lettura di un estratto dal libro Dizionario Affettivo della Lingua Italiana, a cura di Matteo Bianchi e Giorgio Vasta, Fandango Editore, 256 pagine, 10 euro.